America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. The Federal Reserve, which governs the nation's monetary policy, heeded warnings that it is too soon to raise interest rates and said it will keep the benchmark rate close to zero. Avete sentito il newscaster che dà la notizia più attesa, del mese, della settimana, degli ultimi tre mesi, e cioè che la Federal Reserve ha deciso alla fine, ieri, di lasciare i tassi di interesse invariati. Ecco, direi che la notizia era alquanto scontata dal punto di vista tecnico. I mercati davano quasi per certo che la Fed, preoccupata dalla crisi asiatica, dalla crisi cinese, dalla debolezza dell'economia internazionale, potesse decidere di posticipare una stretta monetaria che avrebbe indicato una svolta nella sua gestione dell'economia. Ecco, la Fed ha scelto la prudenza. Ci sarà naturalmente chi si scandalizza di questo. Io stesso più volte ho invocato una dimostrazione di leadership chiedendo un aumento dei tassi di interesse sui fondi federali, cioè i tassi interbancari, nonostante la fragilità economica e finanziaria internazionale. Però devo dire, credo di partire da un presupposto di umiltà e di immaginare che gli economisti alla guida della Banca Centrale Americana sappiano quello che stanno facendo. E dunque credo che, guardando in avanti, più che criticare la Fed perché non ha deciso di aumentare questi tassi dopo averlo detto per molto tempo, più che andare a cercare il pelo nell'uovo, credo che sia invece più importante capire che predicare. E Janet Yellen, con i suoi compagni governatori, è riuscita comunque a dare un quadro di fondo tutto sommato rassicurante e chiaro. Alcuni dicono che la Fed non è chiara, che la Fed non riesce a dare un'idea esattamente di quello che sta facendo, che la Fed è sperduta. Questo non è vero, si può essere d'accordo o non d'accordo sulle scelte politiche, però ieri la Yellen ha spiegato la sua posizione in modo molto chiaro, secondo me, sia in termini tecnici che in termini politici. Sentiamola. As you know from our policy statement released a short time ago, the Federal Open Market Committee reaffirmed the current 0 to 0.25% target range for the federal funds rate. Ecco, avete sentito la Yellen nella conferenza stampa dopo il comunicato che dava la conferma dei tassi fra lo 0 e lo 0.25% tassi interbancari, e dice che la Fed ha preso atto della grande attenzione che deriva dai mercati. Da tempo, dice, ci aspettavamo un rallentamento dell'economia cinese che si sta ribilanciando, quindi è un momento di transizione, attenzione, perché sta dicendo questo la Yellen. E però ha sottolineato che, nonostante ieri si sia deciso di non aumentare il costo del denaro, le sue parole sono: l'outlook non è stato, l'outlook cioè le previsioni, l'outlook non è stato modificato in modo significativo, continua ad essere previsto un miglioramento dell'economia americana e del mercato del lavoro americano. E dice, punto chiave, sarei davvero sorpresa dal fatto che la Fed rimanesse intrappolata in una politica monetaria a tassi zero per sempre. Ecco, non succederà naturalmente, ma qui la Yellen dà più avanti un'indicazione, cioè non si esclude che questo aumento possa avvenire già alla sessione di ottobre o comunque entro la fine dell'anno. E secondo me alla fine di uno degli incontri più attesi del Federal Open Market Committee, cioè del comitato monetario della Fed che si riunisce ogni 6 settimane, emergono 3 conclusioni. La prima è che secondo me, contrariamente a quello che hanno scritto, che hanno detto altri commentatori, la Fed non ha agito per paura, ma al contrario ha agito seguendo un suo processo razionale, che ha tra l'altro illustrato in trasparenza. La seconda, pur non avendo escluso un aumento entro la fine dell'anno, attenzione, ve lo dicevo prima, la porta resta aperta per rinviare ulteriormente la stretta monetaria, e dunque occorre capire fino a quando davvero si andrà al 2016 o no. Terzo punto, se e quando gli aumenti ci saranno, non saranno traumatici, ma saranno graduali, ci saranno punte massime per il tasso interbancario nel lungo termine stimate mediamente attorno al 3,5%. In altre fasi congiunturali, mi riferisco per esempio agli anni 90, siamo arrivati addirittura all'8%, alla fine degli anni 90 siamo arrivati al 5,5%, al 6%, insomma sono sempre stati dei livelli molto elevati. Qui si parla forse di un massimo del 3,5%, quindi c'è anche un target, c'è un obiettivo. Però direi di andare per ordine, perché intanto la Fed non è opaca, vi ripeto, ci sono state molte critiche, si dice la Fed è un po' sperduta, non è incerta sicuramente, tende a preannunciare quello che intende fare, poi procede secondo una sua logica che ha come elemento determinante l'andamento dell'inflazione. Se i tassi sui livelli vicino allo zero, tassi di interesse naturalmente, non hanno prodotto dei rigurgiti inflazionistici, vuol dire che vi sono margini per aumentare l'occupazione e diminuire il tasso implicito dell'economia, cioè quel tasso di disoccupazione che pur scendendo non produce un aumento del costo del lavoro e dunque inflazione. E questo naturalmente alla Fed non dispiace, all'economia americana non dispiace, ai politici americani non dispiace. Dunque non vedo come qualcuno possa dire che la Fed abbia sbagliato politica visto che non ha raggiunto determinati livelli di inflazione, cioè il 2%. Il 2%, ricordiamolo, è il target di inflazione che la Fed ritiene corretto nel contesto economico e dunque vuole spingere l'economia fino a quel punto. Abbassando i tassi di interesse si dovrebbe stimolare l'economia, stimolando l'economia si dovrebbe aumentare la domanda e così si genera un po' di inflazione. Però non è successo, perché c'è un contesto internazionale che ovviamente ha spinto molto al ribasso i prezzi. Ed è vero che normalmente occorre giocare ad anticipo sull'inflazione, cioè non puoi aspettare che l'inflazione sia al 2% per poi cominciare a stringere, però la Yellen è stata molto chiara sul discorso delle fragilità economiche globali e sul fatto che l'inflazione non è una minaccia. Del resto, nei giorni scorsi, prezzi al consumo americani sono diminuiti, quelli alla produzione sono rimasti stabili. Perché sono diminuiti? Perché il prezzo del petrolio è crollato, perché una gran quantità di materie prime costa molto meno di quanto non costasse prima, dunque ci sono degli elementi che giustificano questa situazione. Ecco, per quanto tempo si resterà in questa situazione? La scadenza della fine dell'anno resta come punto di riferimento nel comunicato e la stessa Yellen dà dei riferimenti precisi. Sentiamo. The labor market has shown further progress so far this year. The recovery from the Great Recession has advanced sufficiently far. Se la banca centrale ha deciso di prendere un po' più di tempo per valutare gli sviluppi internazionali, ha detto in questa sua altra dichiarazione la Yellen, ottobre resta una possibilità per un aumento dei tassi di interesse. La conferenza stampa dopo la riunione non è in programma, ma può essere convocata. La maggior parte dei membri della Fed, ha spiegato la Yellen, continua a ritenere che un primo aumento dei tassi di interesse ci sarà quest'anno. Ecco, queste sono indicazioni molto precise, per cui se si tratta di rimandarlo di un pochino, di 6 settimane o di 12 settimane, insomma le cose vanno ancora bene. Se si tratta di arrivare alla metà dell'anno prossimo, forse andranno meno bene. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì per una settimana in cui l'America sarà pervasa dall'excitement papale.